vestiti. Quelli di casa Pau non si sono pentiti di leccare il culo pure ai carabinieri. Oggi i vostri ideali fanno più schifo di ieri. Se ti staccai autogestiti, quelli di casa Pau non si sono pentiti di leccare il culo pure ai carabinieri. Oggi i vostri ideali fanno più schifo di ieri. Polizia, massoneria, sempre più intensivo che sta terapia. media, pagato bene, propaganda, le tue menzogne, denunciamo la realtà. Interrogate, interhate, operate. di nuove cose. Detto la era il re. Les idées sont de travers, de nuit à ne rien faire. Voir ta rue et sa poussière, sans bas sa mauvaise pierre. Sans bas sa mauvaise pierre, sans bas sa mauvaise pierre. Sans bas sa mauvaise justice in our time, the crimes, social. Cosa